Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È indubbio che chi ascolta Radio 24 con attenzione sin da questa mattina si rende conto che noi stiamo trattando il concetto dell'osceno. Tutto ciò che avete sentito parlare, discutere, il finanziamento dei partiti, i problemi relativi ad alcuni grandi movimenti di massa legati appunto a questi soldi che i partiti riceverebbero, hanno un impatto nell'opinione pubblica, nel cittadino che ascolta, che ha problemi molto banalmente quotidiani legati al proprio sottile e futile budget familiare, danno l'impressione di ascoltare oscenità. Questo fa sì che ci sia stata una sorta di slittamento lessicale rispetto al termine di osceno. Oggi, presi dal fuori, dalla rivolta, dal momento particolare, dalla contingenza, noi tendiamo a dare un senso profondo, reale, vitale, sanguigno al termine di osceno rispetto all'oscenità della casta, della classe politica, delle persone che governano, che hanno una doppia valenza di condotta, un'apparente e specchiata ed esemplare attività esterna e una quanto mai oscena reale gestione delle risorse che fra l'altro ci appartengono. Questo fa sì che il termine osceno oggi è entrato in leggero disuso rispetto all'accezione più frequente, più normale. Atti osceni, vi ricordate il vecchio manuale dei confessori? Hai peccato con la carne, cosa hai fatto? Atti osceni, spettacoli osceni, atti impuri. Lo spettacolo osceno era sempre legato all'atto impuro. Perché? Perché l'oscenità è sempre stata relegata a quel dominio umbratile, sottile, umidiccio della contemplazione, dell'osservazione, della fruizione, della cosiddetta pornografia. Quindi oggi ciò che è pornografico ha una sua accezione sanguigna, civile, legata a una situazione politica, a una situazione finanziaria, a una situazione internazionale, ma sembra che sia come caduto in disuso il termine osceno legato in realtà a quello che più normalmente, classicamente abbiamo sempre considerato osceno. Un ospite che avremo questa mattina nella prefazione del suo libro dedicato appunto all'oscenità nella sua caratteristica pornografica, quindi alla sua caratteristica più classica, più sanguigna, cita Jean Baudrillard, che è un grande osservatore del mondo delle apparenze, del mondo della riproduzione della televisione, che appunto determina osceno tutto ciò che è fuori scena, cioè che diventa spettacolare rispetto alla rappresentazione della nostra realtà. Beh, ciò che è fuori scena, ciò che è osceno, ciò che classicamente è considerato come roba zozza, tanto per farci capire, in realtà è un mercato quanto mai fiorente. Non è che l'osceno sia caduto in disuso nella sua lettura classica. Vi leggo qualche numero, un'inchiesta fatta, apparsa proprio qualche giorno fa, un paio di giorni fa, sul sito Bloomberg Business Week, che dedica proprio all'attenzione che l'umanità ha nei confronti di alcuni siti specializzati in materiale osceno. Osceno nel senso che si vedono uomini, donne, oggetti da cucina, animali e altre attrezzature in complessi articolati atti sessuali. Sì, perché di questo oggi parliamo, preparatevi. Se avete orecchie sensibili, allontanatele dal vostro apparecchio radiofonico, ma penso che pochi lo faranno, perché data l'attenzione che in realtà l'umanità versa nei confronti di queste attività, non mi sembra che sentirne parlare per radio porcherà grande scompiglio. Hanno osservato quelli che sono i due grandi agglomerati in rete di oscenità e di pornografia. rispetto alla rete, questa è una mia postilla di anche soltanto una decina di anni fa, che era il luogo definito come la massima abiezione, perciò un'infinità di siti pornografici, pop-up zozzi, dovunque si andava si aprivano delle trappole in cui si spendevano tantissimi soldi, sembrava ti volessero arpionare dentro nel seguire fili di lussure indicibili, generazioni e generazioni si consumavano sulle tastiere, creavano dei problemi al loro hardware dato dal contatto fisiologico con il frutto della loro passione. In realtà oggi si è tutto concentrato in alcuni siti liberi, gratuiti, in cui la gente va, vede quello che vuole, ha delle classificazioni molto capillari, molto quintessenziate. Ti piace vedere il sesso con le bottiglie di acqua minerale frizzante, oppure liscia, oppure gassata? Anche questo c'è. Quindi è un'offerta e una richiesta per tutti i gusti. Beh, questi due grandi siti, evito di dirli perché tante volte evito che qualche ragazzino possa farsi male con le sue stesse mani, lo faccio volentieri. Sono due grandi siti che raccolgono tutta questa varietà di possibilità. Uno dei due genera 4,4 miliardi di pagine, che sono 10 volte le pagine del New York Times e della CNN messi insieme. Quindi i più grandi colossi dell'informazione che hanno una presenza massiccia in rete, che ormai è la rappresentazione reale, concreta dell'umanità, l'abbiamo detto l'altro giorno con un buon padre gesuita, non è che un altro mondo, non è che in internet si muovono degli alieni o le porzioni malate della nostra società. Internet è esattamente la rappresentazione speculare di quello che noi siamo. Uno 4,4 miliardi di pagine e l'altro 2,1 miliardi di pagine viste al mese. Quindi da solo la pornografia, quindi lo sceno, quindi che quello che fuori scena attira la maggior parte dell'umanità che si affaccia attraverso i mezzi informatici di comunicazione. Ogni visitatore ci passa in media 15 minuti su un sito porno, il normale tempo fisiologico per l'espletazione della contemplazione a cui segue un atto probabilmente. Il 75% dei visitatori è composto da uomini, quindi gli uomini sono in maggior parte, però anche la percentuale di donne è notevole, ma è giusto che sia così, è auspicabile che sia così, anche nel vizio, chiamiamolo vizio, anche comunque nell'attività autousurante è giusto che ci sia una sorta di rappresentanza delle quote rosa. Circa la metà dei visitatori guadagna dei buoni stipendi, sono persone benestanti perché hanno anche una connessione internet, i poveracci che fanno? Boh, non so, si arrangiano, guardano dal buco della chiave, immaginano, vanno in giro nei cassonetti a cercare residui di stampa pornografica, ammesso che ancora esista qualcuno che ha tempo, voglia, denaro e follia per investire in stampa pornografica. Uno di questi siti, il più grosso, trasferisce ogni mese 29 petabyte di dati. Petabyte non è una parolaccia, il petabyte equivale a 1000 terabyte, un terabyte equivale a 1000 gigabyte, quindi immaginate che è una cifra che non potete nemmeno immaginarla, trasformata in qualcosa di solido diventa, che ne so, un continente di roba zozza, di donne nude, di uomini attizzati, di cavalli, di caprette, di qualunque cosa. Immaginate un continente ricostruito che ogni giorno appaga il desiderio e la fantasia di tantissime persone. Devo dire che tutto questo messo insieme mi dà l'idea che forse è il caso questa mattina di parlare del fenomeno dello sceno di massa. Esiste una possibilità di stabilire un rapporto fra questo enorme consumo, questo desiderio e alcune mutazioni nella società, nella relazione, nell'organizzazione? Saremo tutti un'umanità che dovrà mettere degli occhiali come telescopi per il calo di diottrie conseguente da questo uso, o perché semplicemente, nonostante ci sia una grande liberalizzazione, ognuno può fare quello che vuole, non esistono più dei limiti, nessuno ti arresta se consumi atti amorosi con delle persone, se corteggi altre persone, è abbastanza facile incontrare persone, è abbastanza facile togliersi le fantasie, esistono fantastici negozi che vendono oggetti per ogni uso, per ogni consumo, ogni camuffamento possibile. Nonostante questo, ancora una volta che appare un misuratore della concupiscenza, del desiderio di lussura dell'umanità, devo dire che l'attività contemplativa è l'attività maggiormente presente. 800 24 00 24, se avete coraggio chiamate. Le donne sì, ti vedono, hanno un rapporto attrazione repulsione, perché magari posso rappresentare un uomo troppo trasgressivo per certi criteri, e però attrazione, perché comunque un professionista del sesso se non altro incuriosisce e fa in modo professionale, se non altro a livello di durata e di tempo, una cosa che comunque, cioè, fa in modo professionale uno sport che è alla portata di tutti e che tutti praticano, per cui una forma... Devo dire che c'è stato anche un rapido sdoganamento dei primi protagonisti di questo fenomeno, i porno attori, tanto che oggi nelle aree specializzate nella rappresentazione dello sceno e ciò che è fuori la scena, ma come sentite, vedete, è perfettamente dentro ogni scena. Franco Trentalance è stato ospite di reality show, spesso ho partecipato io stesso a tavole rotonde sulla metafisica del sesso degli angeli e via dicendo, in cui era presente Franco Trentalance, in domenicali programmini per le famiglie italiane. Quindi c'è stato un progressivo sdoganamento. I grandi miti del passato, John Holmes, Moana Pozzi, essendo passati a miglior vita attraverso un eroico esercizio della loro professione, sono entrati in una sorta di pantheon delle divinità. Ma la cosa divertente è che nella suddivisione per genere delle aree della pornografia, uno dei generi più frequentato è quello del vintage, in cui la gente guarda innocentissimi e teneri film zozzi degli anni 70 che si vedevano soltanto nei cinema, che aveva la fortuna di avere un proiettorino in Super 8 e solo dopo sono stati dolorosamente, faticosamente riversati nei primi VHS. Beh, significa che ormai si sta storicizzando il fenomeno, esiste una sua possibile esegesi, si può parlare della storia della pornografia, ma è più difficile parlare dell'effetto che l'uso della pornografia ha nella società. Professor Renato Stella, buongiorno. Buongiorno. L'ho fatta ascoltare la mia introduzione, dovevo introdurlo in maniera delicata perché le orecchie caste del nostro pubblico non sono sempre pronte a questi shock, ma per assicurarle, il professor Renato Stella è un illustre cattedratico, è professore ordinario di sociologia della comunicazione di massa presso la facoltà di scienze politiche, se non sbaglio, l'Università di Padova. Sì. È un attento osservatore del fenomeno, tanto che 20 anni fa lei scrisse un libro su quello che era il consumo della pornografia in generale, e dopo 20 anni ha riscritto lo stesso libro, perlomeno ha aggiornato il suo punto di vista in questo libro, Eros, Cybersex, Neoporn, Nuovi Scenari e Nuovi Usi in Rete, edizioni Franco Angeli. Nel suo primo libro vedevo che la grande novità era allora... l'entrata nella famiglia media, mediamente borghese, del VHS, quindi della cassetta per visione casalinga, e naturalmente la fortuna del VHS rispetto anche ad altri formati di supporto, di contenitore, di visioni, fu proprio che i VHS cominciarono a riversare i primi film zozzi, e quindi questo fece la gloria e la fortuna del mezzo. Cosa è cambiato in questi 20 anni? È cambiato abbastanza, direi almeno due cose. La prima, c'è un effetto di pornografizzazione per seguire la sua introduzione, cioè i linguaggi, gli stili, i canoni pornografici sono entrati ormai nella cultura colta in parte e nella cultura di massa. Nella cultura colta perché ci sono alcuni film d'autore, per esempio, che contengono spezzoni hardcore, che vengono naturalmente messi in una cornice ben diversa dalla pornografia tradizionale, ma insomma si usano anche immagini pornografiche per fare film d'autore. Ci sono fotografi, pittori, scultori che utilizzano immagini pornografiche hardcore nella loro produzione. Nella pubblicità non entra l'hardcore nel senso che non si vede quello che si vede nei film pornografici, ma ci sono alcuni elementi, alcuni stilemi che sono riconoscibili. Questo per quanto riguarda il lato più alto della cultura. Ecco, forse professore, è bene che diamo una definizione, così evitiamo tagliamo il problema. Per pornografia, per hardcore, intendiamo atti espliciti senza nessun tipo di filtro e censura, atti sessuali espliciti, certo, e rappresentati, ecco. Il resto possa essere oscenità, esistono delle infinite oscenità. Una volta, sì, o anche erotismo, lecito erotismo, rappresentazione artistica dell'Eros, l'origine del mondo di Courbet è un quadro fantastico, anche certo, se mostra un sesso femminile esplicitamente rappresentato. Poi, certo. Noi parliamo soltanto del mercato del film zozzo, fatto proprio perché è un mercato per chi consuma e decide di consumare questo genere. Sì, oggi lo è un po' meno, nel senso che appunto internet consente di trovare moltissimo materiale senza dover spendere denaro, sono quello della connessione, per cui in realtà è un mercato nel senso che c'è un pubblico, ma ma non è un mercato in senso economico, perché si può spendere molto meno per procurarsi questo genere di materiali. Comunque, per tornare al discorso d'origine, quello che è cambiato profondamente appunto è il mezzo, non devi più uscire per andare in edicola oppure in un porno shop a procurarti le videocassette, ma basta che da casa tua ti colleghi a un sito porno. Spesso questi siti porno sono siti di siti, quindi rimandano ad altri siti, per cui in realtà i siti sono ancora moltissimi, solo che sono in qualche maniera riordinati o catalogati attraverso dei siti di siti che sono dei portali. Dei grandi aggregatori di zozzeria. Esatto, diventa più facile la ricerca, eccetera. La novità nella novità è, da un lato, un po' la messa in crisi del mercato tradizionale della pornografia industriale, perché appunto non la compri più, ma la trovi a spezzoni, a pezzettini, gratuitamente. Il secondo, che rimanda alla voce, alla parola neopon che c'è nel titolo del libro, riguarda la produzione soggettiva, amatoriale di pornografia da parte di persone comuni, perché qua, anche qua c'è una innovazione tecnologica, cioè una videocamera costa molto poco, la si può procurare con poco denaro, le videocamere, piccole videocamere che si collegano ai computer costano ancora meno, con questi mezzi si possono fare dei filmetti brevi, che poi possono essere inseriti in internet, appunto in uno o all'altro di questi siti, e la pornografia tradizionale viene in qualche maniera messa in discussione sia dal punto di vista del mercato sia dal punto di vista delle modalità di produzione dalla presenza sempre più massiccia di questa pornografia, che è anche stata scoppiazzata dalla pornografia industriale. Ecco, allora vediamo di definire il problema. Innanzitutto 800240024, non vi spaventate, non vi chiediamo se facciate o meno uso di pornografia, tutti più o meno nella vita hanno il momento di curiosità, visto come dice il professore è facilissimo ottenerlo, si guarda, c'è chi guarda da una sbirciata, poi passa oltre e non se ne fa un problema, chi rimane lì compulsivamente attaccato, e forse per lui questo diventa un problema. C'è un notevole cambiamento nella confezione, nel mercato. Oggi chiunque con un telefonino cellulare, volendo, può fare un'autoproduzione porno e può metterla in rete, tanto che il mercato, che è in forte crisi, ho sentito il mio edicolante, io questa mattina prima di venire qua mi ha detto: guarda, era una parte cospicua delle nostre entrate e non vendiamo più niente, assolutamente. Era una fetta, per quanto voi detestabile, ma avevamo comunque un discreto mercato di giornali, riviste, DVD. Oggi non compra più niente nessuno. Quello che vorrei sapere da voi, telefonando all'800240024, è qual è la vostra percezione di tutto questo immenso mercato di cui stiamo parlando. Come lo percepite? Come ne sentite parlare? Come ne venite sfiorati? O come, se proprio volete raccontare, come per voi fa parte comunque dei vostri usi, non voglio dire quotidiani, ma almeno settimanali o mensili. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, sono io. Sì, sì, lei, primo coraggioso. Vorrei parlare sdrammatizzando di questa cosa. C'è un professore di un'università di Padova, quindi che sta parlandone con noi. Non è che ho chiamato 30 lance o un pornostar. È un fenomeno importante, evidente. Vorrei capire esattamente poi nella ricaduta sociale cosa accade di fronte a questa cosa qua. Giovanni, vediamo come la pensa lei. Sì, intanto grande Nicoletti e basta. Vabbè, va bene. Niente, no, non so se sono in tema, però volevo darle uno spunto. Io vedo questo fenomeno, lo paragonerei, poi lei nelle sue facoltà dialettiche, se le interessa, lo strutturerà meglio. Lo definisco una sorta di bulimia dei sensi, paragonabile anche alla bulimia alimentare, la bulimia dello shopping, questa forma di evasione generale, ma in tutte le direzioni. E ecco, la bulimia è una patologia alimentare. Il bulimico mangia tantissimo, poi una sorta di nevrosi, poi rivomita quello che mangia, alla fine è deleterio per il suo fisico e per la sua psiche. Lei dice che la bulimia di contemplazione sessuale provoca una caduta di desiderio, una caduta di tensione, insomma non ci si diverte più perché è così facile. Esatto. Sì, adesso bulimia è un termine improprio. No, invece rende molto bene però l'idea. Ecco, era solo per rendere, lei ne troverà sicuramente uno più adatto. Però c'è anche la bulimia, diciamo, sull'informatica, la bulimia, non so, sull'evasione, cioè è una forma, adesso poi non so se mi sono spiegato sufficientemente, lei potrà elaborarlo meglio, però lo consideravo in questo senso. Allora vediamo, sentiamo, no, molto chiaro Giovanni, molto chiaro. Lei dice che in effetti questa sovraesposizione, che io non ho nessun intento censorio, guai dire togliamola, peggio ancora, magari se la si togliesse riverebbe il gusto magari di andare a cercare qualcosa di proibito. Non è più nulla proibito, tutto si può guardare, dice l'ascoltore Giovanni. Questo che era una sorta di gozzoviglia totale della contemplazione, e in realtà c'è un callo di tensione, di interesse, di curiosità. Lei è d'accordo, professor Stella? Ma fino a un certo punto, perché non è sempre solo contemplazione, questa è una, come dire, un'idea, mi farebbe da dire, vecchia, adolescenziale, diciamo. No, perché il cybersex, per esempio, non è solo contemplazione, è anche scambio. La produzione di questa pornografia amatoriale non ha come finalità solo quella di mostrarsi, ma anche di contattare persone, per esempio. Allora, è un catalogo delle proprie potenzialità per incontrare altre persone con lo stesso interesse. Costruisce, come sempre in internet, piccole comunità virtuali, naturalmente molto piccole, sono tante piccole comunità, però esistono, quindi non è detto che sia soltanto, come dire, il sostituire l'atto con la contemplazione, è questo, ma è anche integrare l'atto, per esempio, non so. Diventa un grimaldello per aprire nuove forme di relazione, ecco, così. Nuove forme di relazione vuol dire capire nuovi stili sessuali, inseguire delle fantasie, non sempre da soli, ma anche in coppia oppure in gruppo. Quindi c'è una dimensione della sessualità prima di quella della pornografia abbastanza articolata e ampia. A questa corrisponde sia un uso classico, che è quello contemplativo, se vogliamo usare questo termine, sia un uso nuovo, perché infatti è anche improprio chiamarla, secondo me, pornografia, questa nuova pornografia, perché in realtà spesso, appunto, la finalità non è quella di eccitare gli altri semplicemente come poteva fare l'industria pornografica, ma è quella di richiamare la loro attenzione, di dire esistiamo anche noi, rompere muri, per esempio, che possono anche essere di solitudine spaventosa. E questo è il fenomeno che lei definisce del neoporn, più o meno, è un'area nuova, differente, molto presente, percepibile ormai in tutte le maniere, che però sta mutando da dentro anche tutte le abitudini che riguardano la relazione, la sessualità, la tensione amorosa. Melog, la realtà condivisa. Rassegnatevi, fatevene una ragione. Il grande fratello del porno vi osserva. A caccia di downloading illegale o reati sessuali consumati online, alcuni indirizzi sono già sotto controllo. Come già successo in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti le autorità stanno tracciando siti come BitTorrent alla ricerca di abusi. Cosa significa? Vi vedono. Registrano ogni vostro click, ogni vostra sessione masturbatoria. Questo tutto resta scritto. È un altro problema rispetto a quello di cui stiamo parlando, che in realtà il timore, ma è giustificato. Si sa, se, come abbiamo detto poco fa, la maggior parte del materiale pornografico presente in internet, un materiale che si raggiunge gratuitamente, è chiaro che un profitto deve averlo chi questo materiale mette in rete, ma molti lo mettono in rete anche semplicemente perché diventa un proprio biglietto da visita, una sorta di catalogo di ciò che può offrire la casa, in questo caso la famiglia. Se i siti sono siti di interscambio di fantasie o anche di atti concreti. Visto che parliamo questa mattina di pornografia nel vero senso della parola, ma non ci interessa l'aspetto compulsivo patologico che indubbiamente esiste, ci interessa capire, lo stiamo facendo con una persona molto documentata da anni, quanto questo stia mutando nella società il concetto di relazione, il concetto anche di relazione profonda, di relazione curiosa, interessata, di solleticazione dei sensi con altre persone, a volte sconosciute. Attraverso la rete è facilissimo passare dal buongiorno, come stai, a vediamoci fra 10 minuti perché non sto più nelle mutande. Ma se pensate che anche gli italiani siano fuori da questo grande giro, c'è un pezzo che ho trovato con alcuni dati. Sono 7 milioni gli italiani che navigano nei siti hard e fruiscono con i contenuti porno, un numero pari al 29% dei navigatori totali, quindi quasi un 30%, uno su tre va a vedere roba zozza in rete. Il dato ha visto un incremento del 58% in 5 anni. La Società Italiana di Andrologia Medica poi dice che naturalmente, monitorando fra il 2005 e il 2010 28.000 utenti, ha visto che c'è una ricaduta notevole anche su la salute sessuale dei suoi clienti. Ma gli androgeni naturalmente sono interessati all'aspetto genitale. Noi questa mattina con il nostro ospite vogliamo guardare un pochino più là. Ricordo che il professor Renato Stella, che è in studio in collegamento con noi, è ordinario di sociologia della comunicazione di massa alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Padova, da 20 anni studia questo fenomeno. 20 anni fa scrisse Lo sceno di massa, sociologia della comunicazione pornografica, e adesso ha scritto Eros, Cybersex, Neoporn, nuovi scenari, nuovi usi in rete, edizioni Franco Angeli. Al tempo, professore, lei ebbe critiche per la sua analisi così scientifica e priva di letture moraleggianti del fenomeno? Beh, da parte della comunità scientifica e degli sociologi sì, mi osteggiò. Non bisognava parlarne, bisognava far finta che non esistesse. Forse, ecco, due cose: bisognava non parlarne, e se se ne parlava bisognava parlarne condannandola durissimamente, dicendo oddio cosa sta succedendo. Io poi, rileggendomi, mi sono reso conto che in realtà era molto prudente, perché come è andata non solo mi ha in qualche maniera riconfermato che avevo preso la strada giusta, ma è andata in maniera molto più complessa, come stiamo dicendo stamattina, di come si poteva immaginare 20 anni fa. Ma esiste ancora una grande profonda, nella società totalmente liberalizzata nei suoi usi e tendenze sessuali, esiste ancora una grande pruderia. Parlare di queste cose ancora, anche il più laico degli interlocutori ti guarda come se ti guardassi, ma perché ti interessi di questo? Allora sei un maiale. Ecco, questo è il primo pensiero che passa probabilmente in molti suoi colleghi. Sì, anche i miei studenti, che però in qualche maniera si proiettano su di me, quindi poi, superata questa prima fase, in qualche maniera si riconoscono. Per fortuna rimane la pruderia, che un po' smentisce il fatto che questa grande circolazione possa come dire, togliere desiderio o trasformarlo al punto da renderci meno interessati a quello che accade nel mondo. Non è così, ci si innamora lo stesso, si hanno relazioni lunghe lo stesso. Probabilmente la pornografia tappa dei buchi nelle fasi di vita, certamente essendo molto più disponibile crea anche una maggior tolleranza e anche un maggior consumo rispetto agli anni scorsi. Ma per qualcuno è anche una buona enciclopedia nell'ignoranza generale, che attraversa molte generazioni. Certo, qualcuno scopre cose che non avrebbe mai immaginato da umano, ecco. È uno strumento anche di acquisizione di conoscenza rispetto a modalità sessuali. Gli adolescenti di tutto il mondo, secondo me, che è raggiunto dalla rete e si socializzano alla propria sessualità, al desiderio, eccetera, eccetera, attraverso questo strumento, gli adolescenti maschi. Qui si generano un paio di problemini, per esempio i modelli che vengono distribuiti sono di tipo, come dire, maschiocentrico e spesso sessista, e da un lato poi sono etnocentrici dal punto di vista occidentale, nel senso che un ragazzino indiano, asiatico o africano che abbia la possibilità di avere un accesso a internet vede la sessualità prevalentemente come la immaginano e la rappresentano i paesi occidentali. Quindi ci sono alcuni problemi anche globali che stanno nascendo. E naturalmente chi ha il dominio del mezzo impone il suo modello anche nell'aspetto fuori della scena. Sentiamo qualche ascoltatore. Giovanna, ecco una donna, finalmente. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Ho 70 anni e un marito di 80 anni. Forse sono leggermente fuori tema. No, però volevo dar voce a tante donne a cui immagino la vita sia stata parzialmente rovinata, come è stata rovinata la mia dal porno. Sua vita è stata rovinata dal porno? Sì, vi spiego. Io ho per circa 20 anni accettato ob torto collo le scelte di mio marito, che ha 10 anni più di me. Però devo dire che questa cosa era una continua escalation, cioè è iniziata in maniera soft e gradatamente si è complicata, al punto che io vivevo malissimo questa situazione. Non voglio entrare in particolari, che lei può ritenere scabrosi, ma i primi VHS hanno 20 anni, prima di 20 anni fa era un po' difficile che entrasse in casa materiale pornografico. No, infatti inizialmente erano giornali. Giornali zozzi, portava a casa. Giornali porno che mi ritrovavo a casa e che in qualche modo dovevo accettare. Poi sono arrivati i VHS e quindi è andata così. E oggi a 80 anni continua con internet suo marito? No, grazie a Dio, mi scusi la cattiveria. Si è calmato. Ma no, grazie a Dio ci ha pensato la vita. È morto? No, è vivo, però è arrivato un cancro alla prostata. Gliel'ha proprio augurato lei in questi anni? No, non sono arrivata a questo. Però sì, ma cosa, adesso non voglio entrare, questo povero signore che ha tutta la mia comprensione, scusi, sì. Che si portava dei giornalini zozzi a casa e guardava qualche cassetta zozza, non mi sembra che avesse fatto un delitto da meritarsi la castrazione prostatica? No, ma chi parla di meritarsi questo? Io ho detto semplicemente, tra virgolette, che la cosa si è risolta in maniera naturale. Ma perché le ha rovinato la vita? Mi spiega. Mi ha rovinato la vita perché io ero stata educata con altri criteri, con altri principi. Ma sai che noia, scusi, dal suo punto di vista. No, non è vero. Perché noia? Perché dice così? No, perché lei io la stimo, però non può dire questa cosa. Ci sono... Signora, lei ha appena detto che un marito le ha rovinato la vita. Perché guardava delle cassette? No, mi ha rovinato la vita il porno, non mio marito. Ma cosa la costringeva a fare film porno? Sì, mi costringeva ad assistere a delle cassette e nello stesso tempo operare. E lei poteva dire, guarda, non mi va, non mi dice nulla. Ma sa le tragedie che sono venute fuori? Sa le scene che sono venute fuori? È una situazione complessa in cui non voglio entrare, sì. Sennò sembra che voglio ironizzare tutto, e assolutamente non voglio ironizzare. Però lei deve capire che quest'uomo probabilmente aveva qualche fantasia che lei non aveva, e questo poteva dargliene atto, e mettere un muro di solito e dire no, questa cosa assolutamente no. E certo che crea l'aumento della compulsività da parte della persona. Lui avrebbe voluto la moglie lievemente, probabilmente più disinibita. Il suo diritto non esserlo, non gliene importa nulla, non voglio entrare in merito, non faccio il consulente, Dio me ne guardi, però uno parla anche dagli anni che ha vissuto. E chiaramente più lei si dimostrava ritrosa e schifata questa cosa, più lui cercava di portare pimento e condimento al vostro rapporto, e poi è arrivato il cancro alla prostata e tutto è finito. Lei si sente sollevata, ma è una situazione molto diffusa probabilmente in molte famiglie. Non so se c'è un rapporto causa rispetto a quello che stiamo dicendo, ma riprenderemo col professor Stella tra un istante dopo le informazioni del traffico. Melog, la realtà condivisa. Did You Watch Porn è il sito che vi permette di scoprire se i vostri amici hanno visitato siti pornografici. Tutto quello che dovete fare è entrare, registrarvi, inserire la vostra mail e in automatico il sistema manderà un messaggio a tutti i vostri amici. Quando i vostri contatti apriranno la mail... 800 24 00 24, sapevo, mi sarei impiccato con le mie stesse mani. Stanno arrivando frotte di telefonate di signore che dicono come si permette di prendere le parti del marito. Ma io mi sono sentito lievemente colpito dal fatto, nel sentire quella sorta di soddisfazione e di liberazione da parte di una moglie, che il marito a 80 anni avesse avuto finalmente un cancro alla prostata che lo distogliesse dalle sue compulsioni sessuali. Poi si trattava di mostrare alla moglie qualche cassetta per provare a dirle, immagino, guarda, probabilmente possiamo andare anche oltre al missionario. Professor Renato Stella, qual è il suo punto di vista rispetto a questa esemplificativa telefonata che mi causerà un sacco di problemi? Beh, è uno dei problemi appunto legati al consumo di pornografia. Negli Stati Uniti il consumo compulsivo può essere causa di divorzio, in Italia non lo so. Le donne si sentono spesso molto offese dal consumo segreto dei loro mariti perché si mettono in qualche maniera, si sentono escluse, messe da parte, come se ci fosse un'altra donna, in realtà con una serie di altre donne che entrano in campo anche se attraverso una mera rappresentazione. O se no, come questa signora, subiscono qualcosa che a loro non va, non fa parte dei loro schemi. La pornografia è un accessorio sessuale maschile, punto, su questo non ci piove. Quindi da questo punto di vista è evidente che non va per niente bene imporre la presenza di materiali o il fatto di produrne al partner senza che questo sia d'accordo. C'è tutta una modalità anche linguistica che hanno i maschi, parlano tra loro delle loro mogli per indicare le modalità con cui dovrebbero in qualche maniera emanciparle. Ma non è forse questo magari un problema che crea degli obiettivi non raggiungibili mediamente in una media famiglia ben pensante? Quindi questi uomini si fanno dei film in testa e le mogli non ci stanno, non gli va, se non gli va non gli va, non esiste, non è che uno può cambiare una persona. Appunto, quindi imporlo in qualche forma anche soft mi pare la strategia sbagliata. conservare segretezza sul consumo, finché il brano è segreto non succede quasi nulla, ma se questa segretezza viene violata succedono appunto dei problemi, ci sono dei conflitti, non è una cosa semplicissima. Siccome io sono molto laico, uno si va a cercare fuori se deve creare dei problemi quello che non trova in famiglia e con pace sua del mondo. Alcuni dicono che è anche un modo per preservare la coppia addirittura, cioè per non tradire mia moglie con passati 5, 6, 8, 10 anni eccetera eccetera, quando il desiderio comincia a diminuire, per non tradire mia moglie effettivamente, cioè con un'altra persona, preferisco uno strumento che mi consente, come dire, di salvarmi la coscienza. Eh sì, ma una normale massaia con i figli e problemi non può diventare Moana Pozzi così schioccando le dita. Sentiamo, no. Agnese. Agnese, buongiorno. No, Agnese non c'è più. Roberto. Eccomi, buongiorno. Sì. No, sono voluto intervenire perché ho sentito la confessione della signora precedente, insomma, che secondo me lei, Nicoletti, l'ha liquidata in maniera abbastanza, voglio dire, forse potevamo approfondire un po' il discorso che la signora ha messo proprio il dito nella piaga, nel problema. Sì, però io ho notato una sorta di soddisfazione, un po' infastidio sul fatto finalmente la natura ci ha pensato e è venuto un tumore alla prostata. Una persona che ama un'altra persona non si può immaginare che questa sia una soluzione. Ma anche questa risposta della signora secondo me la dice lunga, cioè nel senso i siti pornografici in genere, se lei li frequentasse per un attimo per capire. Ma tutti li abbiamo frequentati, nessuno è fuori. No, lei sa che sono divisi per categorie. Assolutamente, no? L'ho detto all'inizio della trasmissione. Ecco, che fruiscono praticamente aspetti sessuali a seconda delle esigenze e delle perversioni, tra virgolette, di chi li... Quindi lei troverà di tutto. È evidente che quando una persona è compulsiva e quindi ricerca nel sesso, non il sesso inteso così come erotismo, ma cerca quel particolare che per lui è fondamentale, diciamo. Poi spesso e volentieri il problema è che viene poi vissuto nella famiglia, nei rapporti sessuali con i rapporti. Sì, ma qua mi sembrava una cosa un pochino più soft, se mi dà atto. Un signore di 80 anni che 20 anni fa, quindi a 60 anni, cominciò a portare a casa i primi VHS, che non avevano nulla di tutta questa sottile disquisitoria suddivisione, e una signora che gli dava fastidio, non sono riuscita a gestire questa cosa, lei va a dirgli guarda, questa cosa per me proprio non c'è, non ci sta, arrangiati, vedi un po' te. L'ha subita come un'onta, come una violenza, e più la subiva più lui cercava probabilmente arzigogoli vari, fino a che la natura lo ha punito. Ma questa sorta di strale divino che punisce l'uscita alla regola, a me lievemente ha dato un po' fastidio. Federico. Pronto? Sì. Nicoletti, buongiorno. Senta, io parlo come sistemista e le posso dire che fondamentalmente più dell'80% del traffico internet è per siti porno. Nel senso, chi dice che non ci va mente sapendo di mentire. Io ho fatto anche da consulente per un tot numero di internet service provider, che sono praticamente quelli che ti danno internet. Tenga presente che almeno il 90% delle macchine collegate, almeno il 90% una volta al giorno visiona siti pornografici. Ecco, diciamo una cosa, diamo una grande notizia, così creiamo un po' di apprensione. Ragazzi, se ci andate rimane traccia. Se un signore come il nostro ascoltatore mette le mani al vostro hard disk, potete cancellare quanto volete, resettare, tanto qualcosa rimane, o sbaglio? No, comunque qualcosa rimane, ma a livello sistemistico chi vi dà internet sa perfettamente dove andate, cosa fate, cosa vedete, quanto tempo ci rimanete, e al 99% anche chi siete, nel senso che certo, il sesso della persona si vede facile, perché se tu 5 minuti prima vai su un forum di taglio e cucito e 5 minuti dopo vai su un sito porno, è abbastanza facile. Basta che vai sul tuo profilo Facebook e vedono esattamente chi sei. No, certo, chiaro. Samuele, chiudiamo con Samuele. Samuele, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Sì, no, infatti anch'io non voglio colpevolizzare il signore. No, mai nessuno colpevolizza. Che... Sì, siamo invasi, cioè, appunto, come dice anche questo sistemista, cioè, basta mettere poi un nome su internet e poi vieni proprio contattato da questi siti, secondo me. Il problema, secondo me, è anche che saranno i giovani, perché si stanno esibendo troppo, come diceva il professore prima, si fanno filmare, quindi questo esibizionismo così palese porterà un problema alla sessualità. Allora fermiamoci un attimo. Questo è la sua... Professor Renato Stella, lascio a lei la conclusione, visto che lei è stato così profetico 20 anni fa, mi dica, secondo lei, nei prossimi 20 anni quale sarà la deriva di questo fenomeno? Beh, no, difficilissimo poterlo dire. Secondo me continuerà su questa addirittura della produzione amatoriale. Ci sarà un equilibrio tra la produzione industriale e quella materiale, con scambi di linguaggi e di stili tra l'uno e l'altro. E noi impareremo a convivere anche con questi, con, questi strumenti e con queste modalità. E sarà più gestibile anche in famiglia questa sorta di divario insuperabile tra le compulsioni del maschio e le reticenze della femmina? Lì sarà un po' più difficile, perché, come dire, questa specializzazione di ruolo esiste in maniera abbastanza profonda. Se dobbiamo mettere in campo i mezzi di comunicazione di massa legati alla distinzione di genere, bisogna ricordare che se gli uomini frequentano molto la pornografia, che dà molto fastidio alle donne, le donne frequentano molto i romanzi rosa, che danno particolarmente fastidio agli uomini, non nella stessa forma naturalmente. Questo solo per dire che c'è una specializzazione di genere nei consumi mediali, e sono consumi che si concentrano intorno a prodotti pensati per l'uno o l'altro genere. Anche il romanzo rosa, tutte le sue, io dico romanzo rosa per intendere le soap opera, i fotoromanzi eccetera, ha una dimensione sessuale molto evidente, che non è genitale però. Ecco, la cosa triste, professore, non so quanto lei lo sappia, che queste cose un uomo comincia a capirle, a saperle, a individuarle quando ormai comincia a essere vecchio, e gli interessano sempre meno. Grazie al professor Chiappini, grazie a Fabrizio Intonti, a domani.